Va bene, buonasera. Io sarò veloce da Breaking News, non ho bisogno di microfono. E volevo solo darvi il benvenuto in corte, ringraziare Martina e Laura per questa serata, grazie al fatto che congiunge un po' alcuni luoghi a Milano che si stanno simpatici e vogliono cercare di ritestare le coscienze, tra cui Ex Alge, dove il podcast di Cavalestra Voltaire è già stato incubato e ha iniziato a prendere forma, e adesso sta contagiando anche altri luoghi, tra cui la Corte di Miracoli. Quindi un grande applauso a loro. Allora, benvenuti, benvenuti alla nostra quinta puntata di Cabaret Extra Voltaire. È un podcast radio show che è nato appunto in Ex Alge, che è un altro spazio culturale e sociale di Milano, e in realtà è nato come branca di un altro podcast che esisteva prima, che si chiama Cabaret Voltaire, e che è nato con l'intento di, diciamo, dare spazio comunque alla creatività o alla messa in discussione un po' della cultura a cui siamo abituati. E una volta ho invitato la Marti, che ha portato un suo testo, cioè una traduzione di un testo che ha fatto di Simona Semenich, e visto che ci siamo trovate molto bene e la Marti è una bomba di creatività e genialità, abbiamo pensato che potesse essere interessante dedicare proprio un podcast solo alla drammaturgia femminile. E quindi Cabaret Extra Voltaire ha proprio l'intento di dare spazio e voce a testi di drammaturghe donne che magari non sono ancora stati performati o sono ancora in una fase, diciamo, di bozza, di prova. Proprio con l'intento di dare voce alle sole parole, per cui essendo un podcast non è appunto uno spettacolo recitato, ma semplicemente sentito, e quindi ci interessava anche, diciamo, provare a mettere in scena qualcosa che potesse essere ibrido, sperimentale e vedere un po' cosa ne esce fuori. Sì, e anche per in un certo senso dare la possibilità a un pubblico di poter ascoltare un testo, perché molte volte leggere il teatro può creare una barriera da chi non è abituato appunto ad interfacciarsi con un testo teatrale, e questo spazio, appunto, oltre che a promuovere la drammaturgia, dà anche una possibilità a chi scrive, alle autrici, di usare questo spazio per sperimentare e vedere se un testo che risposta ha dal pubblico, sentire come suona. Quindi, in questo senso, abbiamo invitato Paola Galassi, che in realtà sperimenta oggi con noi la sua prima lettura aperta di questo suo lavoro, che è il suo primo lavoro da autrice, perché Paola nasce come attrice, e questo testo è Primo studio per una solitudine. Quindi lascio la parola a lei e poi faremo una breve chiacchierata. Lo spiego, credo, devo spiegarlo. Beh, tanto non sono capace, quindi lo La prima ricerca è capire qual è il lato migliore per il leggio. Allora. Sì, ma adesso lo sblocco. Che tanto. Allora, mi metto un po' più indietro perché almeno cerco di coinvolgervi tutti. Bene, grazie. Prima di iniziare, ci tenevo a dire due parole. Parleremo di corpi in scena, di testo che si fa corpo e di presenza. E per me in questi giorni la mia testa, i miei pensieri sono molto rivolti alla Palestina e a chi sta mettendo i suoi corpi anche a rischio. Per i propri ideali e rifletto tanto su questa presenza di cui noi parliamo tanto in teatro come qualità di stato, come sia fondamentale ora e come anche per alcuni forse può essere riscoperta la presenza del proprio corpo in piazza, la presenza del proprio corpo in strada, una presenza che agisce, una presenza concreta che ci permette anche di sentirci un po' meno impotenti. E quindi volevo condividere con voi, penso che in questa sala ci siano tante persone che sentono quello che sto sentendo io e insomma continuiamo a manifestare e essere presenti. È uno studio, eh? È uno studio, non è uno spettacolo. Sol etude, sol etude. Sol etude, no? Cioè studio, c'è proprio scritto dentro la parola studio. Atti, a, a voce, e, educazione, i, i morti, o, ora, u, urla. Etude è una breve composizione musicale concepita a scopo didattico che serve a esercitare un particolare aspetto della tecnica di un qualunque strumento musicale, ad esempio le scale musicali, la diteggiatura per pianoforte o chitarra, il legato, lo staccato, gli arpeggi, le ottave, i trilli. Vocina, vocio, prender voce, dare voce, prender fiato, dare fiato. Apri la bocca, chiudi la bocca, ti chiudo quella bocca. Apri la bocca, chiudi la bocca, a bocca, beccato, beccare, beccati questo. Bocca, bacco, becca, bacca, becchini, beccati, beccano, becchi. Respiro, respiro, ricordo, ridare, rumore, grossa, mezza, spezzata, rotta, roca, stonata, gracchiante, gracile, sibilo, ululo, fragore, rombo, dar voce, prender fiato, dar fiato alla bocca, riempirsi la bocca, fare la voce grossa, fare la voce, facciamo un caloroso applauso a Celeste! Buonasera, benvenuti, benvenute, che emozione vedervi tutti qui. Questa è una serata dedicata a Billie Holiday, la mia. Amo cantarla, mi incuriosisce la sua vita, la sua capacità di rivolta, anche la sua capacità di stare con il dolore, no? Quante persone qui sanno chi è Billie Holiday? Beh, abbastanza bene. Sì. Sapete come si intitola la sua autobiografia? La signora canta il blues. La signora canta il blues. Lei voleva chiamarla Bitter Crop, amaro raccolto. Ma no, tutta un'altra. Cioè, un'altra vita, no? In my solitude. In my solitude, you hold me with reveries of days gone by. Nella mia solitudine mi tormenti con i ricordi dei giorni passati. Billie Holiday non si chiama Billie Holiday per davvero, no, si chiama Eleonora Fagan. Nasce il 7 aprile 1915 a Filadelfia da Julie Sadie Fagan, 19 anni, e Clarence Holiday, 18 anni, musicista, sempre in turno, c'è cioè mai. Eleonora, cioè Billie, diventa famosa in breve. Viene chiamata da diverse formazioni jazz, fa un film con Duke Ellington, beh, buono, no? Diventa un simbolo della liberazione femminile nera dallo schiavismo e dalle mura domestiche. Cioè, Billie, insieme a Ma Rainey e Bessie Smith, sono considerate le fondatrici del femminismo nero. Queste cantanti cantavano di donne libere, libere di viaggiare, di reagire, di lasciare case dove venivano maltrattate. Erano le uniche a parlare di violenza domestica così apertamente. Nessuno lo faceva. Né nelle famiglie nere né nelle famiglie bianche. No, no, no, non se ne parlava, cioè, non la potevi nominare. Le persone attorno smorzavano i toni, mi inimezzavano, ci ridevano su. Che burbero. Soffre di pressione alta, eh? Tu, comportati bene, vedrai. Vabbè. No, un capello in bocca. In my solitude. You taunt me with memories that never die. Ma Rainey, quando cantava Runaway Blues, si metteva il cappotto e portava in scena una valigia. Così dava a tutte le donne presenti nel pubblico il permesso di viaggiare. I'll run away tomorrow. They don't mean me no good. I'll run away tomorrow. They don't mean me no good. I'm gonna run away. Have to leave this neighborhood. Our sun gonna shine though someday in my backyard. Our sun gonna shine though someday in my backyard. I got my man, but I away so hard. Lou, what's the matter? Mama can't be treated just right. Lou, what's the matter? Mama can't be treated just right. Got my broken hand. Ora figda, mi sono rotta la mano, che notte fitta e buia. Mio fratello a 20 anni si è rotto il dito del mignolo cadendo dal letto. Che scemo, ho pensato. Cioè, come si fa? A lui piaceva sempre dormire fino a tardi e i miei questa cosa non la potevano sopportare. Mi mandavano a svegliarlo e io gli tiravo le cuscinate. L'ho immaginato, ricordo, da bambina, dico. Ho immaginato più volte come come cioè la dinamica, no? Lui allunga la mano dal letto verso il pavimento, si lascia rotolare giù e il dito si piega male, al contrario si spezza, logico, mi sembrava logico. Pronto? Pinocchio? Ah no, devo fare il numero. Pronto, Pinocchio, ci sei? Ciao, ci viste? Questa è la segreteria di Pinocchio. Raccontami quello che vuoi. Tu sai come si è rotto il dito a mio fratello? Tu lo sai? Pronto? Se dici le bugie, ti si allunga il naso. Questo cerchio, scusa, Fede, questo cerchio è troppo stretto. No, perché devo stare in questo cerchio di luce? No, dico questo piccolo. Perché non posso cantare, non so, con un piazzato, no? Lo dice anche il nome, grande quanto una piazza, non questo cerchietto, questo recinto, questo tappeto, questo piccolo spazio. No, scusate. Ah, dici una luce per ogni microfono. Ah, ho capito, si illumina solo chi parla. No, è che a me non me ne frega niente di queste convinzioni, le introduzioni, le spiegazioni, le luci giuste. Faccio il mio compito, sono brava a fare il mio compito, a fare i compiti. D'altronde ho passato tutta la vita a fare la brava, cosa ci ho guadagnato? Niente. Io come faccio a non dirvi tutto quello che c'è dietro? Da tutto quello che c'è dentro? Io non posso, non posso tenere tutto all'oscuro, se tenessi tutto all'oscuro, tanto vale fare il concerto al buio. Mi serve. Scusate. Qui facciamo finta che esco di scena e voi vi dovete immaginare che porto un microfono e questa luce che inizialmente era un faro tutto su di me. Ecco, si apre su un altro microfono. Ecco, adesso illumina tutti però, tutti i microfoni, tutte le voci, tutte le assenze, non sono sola, ci sono le antenate. C'è il canto e qui. No, scusate, la rifaccio. Ora vi dovete immaginare che esco di scena, vado a prendere un terzo microfono, lo porto in scena, illuminano anche quello. Adesso illumina tutti però, tutti i microfoni, tutte le voci, tutte le assenze, non sono sola. Ci sono le antenate, c'è il canto e qui. Qui ci sono io. Questo microfono è il mio. È il microfono della mia vita, dei cazzi miei, dei fattacci, i fattacci di Celeste. Scusate. I sit in my chair, filled with despair. There's no one could be so sad, so sad, so sad. Billie Holiday, bambina, strofina i pavimenti del bordello di Alice Dean e i cents che guadagna, li usa per affittare il salottino ed ascoltare la musica che esce dal grammofono, le voci di Louis Armstrong e Bessie Smith. È la prima volta che sente cantare senza le parole. E poi c'è Pops che canta tutto quel ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- voglio non dire. Billy passa i primi anni della sua vita a girare per le case con secchiello e bruschino, a strofinare, pulire le case degli altri, a guardare le vite degli altri, a ascoltare le musiche di altri. La madre è andata al nord per lavorare e l'ha lasciata dalla cugina Ida, che un giorno sì, un giorno no, la mena di santa ragione. Aspettano che finisca la quinta elementare prima di metterla su un treno per raggiungere sua madre, con un cartello attaccato al collo con scritto chi è e dove va. Billie Holiday, Long Branch. Ma lei al cambio di treno rimane a New York, perché ha 13 anni e vuole vedere Harlem. Baba, baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità, sono pronto, sono qui per cominciare. Oh, bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per me, ma questa tentazione che cos'è? Bia, ba, e bie, be, cara sillaba, come io, celeste, bambina, divento intonata sulla via della scuola. Mio padre, per tenere il passo, mi fa cantare il quartetto Cetra e i grandi successi di Massimo Ranieri, Flick e Flock. Quando torno a casa, mio fratello mette su Aretha Franklin per farmi ballare e lui suona il blues con l'armonica a bocca. Mio padre canta quando è di buon umore. Mia madre non canta, no. Si vergogna, si sente stonata. Ogni tanto quella voce spezzata, gracile, spezzata, gracchiante, accenna una canzone e poi mi chiede di continuare a cantare per lei. Mia madre è così, appoggia la guancia su un pugno. Mia madre, bambina, è molto piccola. La più piccola di quattro sorelle, la più piccola di quattro orfane. Mia madre, bambina, me la immagino come mia madre, ma ancora più piccola, minuta, minuscola, proprio con i capelli neri a caschetto, lisci, quadrati. Mia madre, Polly Pocket, vive in un collegio di suore. Quando fa la pipì a letto, la mandano in giro per le classi con un cartello appeso al collo con scritto chi è e cosa ha fatto. Antonia, ho fatto la pipì a letto. Un giorno trova sulla sua scrivania una gabbia con un topolino. Il topolino è simpatico, le fa compagnia. Studia e c'è il topolino, legge e c'è il topolino, si sveglia e c'è il topolino, va a dormire e c'è il topolino. Un giorno il topolino non c'è più. Quando va in mensa sul tavolo c'è la gabbietta vuota e nel piatto della carne, la forma della carne le ricorda la forma di un topolino. La lasciano lì da sola in mensa con l'obbligo di finire il pasto. Mia madre Polly Pocket, coi capelli a caschetto, non mangia, prende la forchetta e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega, e la piega fino a spezzarla. Mia madre non parla più, non apre bocca. Le suore dicono a sua zia che è scema, che ha dei problemi nella testa. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad. Con la tristezza ovunque mi siedo e fisso il vuoto. So che presto impazzirò. Oh babbo! Oh babbo bambino babbetto! Oh babbo bambino babbetto! Che l'autobiografia della grande Lady Day in Italia è stata tradotta da un traduttore toscano. È la famosa Billie Holiday di Livorno. E allora dice, oh babbo bambino babbetto, quando vede il grande chitarrista Holiday. Babbo, bambino, babbetto, ma holiday, babbo holiday, ehi, babbo holiday, babbo holiday, e dammi sti soldi, babbo holiday, dammi sti soldi, dammi soldi dell'affitto, babbo holiday. Oh bellina, dai, non mi parla così davanti alle ragazze. E io ti dico, babbo, bambino, babbetto, fino a quando non mi dai i soldi, anche davanti a queste galline. Oh, che stasera il pollo, me lo voglio mangiare io, me voglio mangiare il pollo fritto. Oh, che a casa c'è la mamma che sta male. C'è la mamma malata e tu stai qui a cincisca con queste gallinelle, dammi i soldi, dammi i soldi, dammi i soldi dell'affitto, oh, se no ti seguo per tutti gli Stati Uniti a dire che c'ha una figlia. Oh babbo, oh babbo, oh babbo, oh babbo, papà, Papà? Papà? C'è una foto dai colori bruciati, è tutta arancione rossa, una linea in mezzo. Mi piace l'arancione perché mi fa pensare alle cose illuminate. Una foto bruciata dal calore del sole, la linea colora di calore me celeste bambina con un cappottino elegante. Sorrido e ci teniamo per mano, lui è accanto a me. In tutto il suo splendore, gigante. Gigante, sì, più alto di me di almeno 2 spanne. Scarpette nere di legno, gambe color legno di legno, busto verde di legno, testa rotonda color legno di legno, naso lungo, non troppo, color legno di legno, occhi grandi. Abbiamo tutte e due gli occhi grandi. Siamo al parco di Collodi e io so che Pinocchio è vivo ed è con me in qualche modo in un altrove. Sì, mi bastava premere 0 sul telefono di casa perché una voce nasale uscisse dal vento dall'altra parte della cornetta. Qualcuno aveva creato per me quello spazio sicuro. La segreteria telefonica in cui io, Celeste, bambina, avrei potuto sfogarmi dei miei dispiaceri, dei miei litigi, dei miei non detti. Faceva più o meno così. Pronto, Pino? Ah no, devo fare il numero. Pronto? Ci sei? Ciao, Celeste! Qui stai la segreteria di Pinocchio! Lascia un messaggio! Ho litigato con papà, non volevo mangiare l'insalata. Ha lanciato un coltello, si è conficcato nella sedia accanto a me. Ho chiamato la mamma a lavoro e le ho chiesto di tornare, ma lei non può tornare, non subito. Papà ora non parla più. Pronto? Pinocchio? Pinocchio? Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro, mi manca l'aria. Non respiro. O quando arrivo ad Harlem, me ne sto 2 settimane in un asilo prima che mia madre mi trovi. A Long Branch lavoro come domestica, ma alla fine mia madre si arrende e mi trova una stanza ad Harlem. Si premura con la signora Florence di tenermi per bene e manco si rende conto che sta parlando con una maitresse. Faccio la call girl, ma con gli uomini non ci penso proprio ad andarci, dopo il fatto accaduto col signor Dick quando ci avevo 10 anni. Eh sì. E mamma è andata a fare la spesa, c'è solo il signor Dick in casa, mi prende per mano, mi dice che la mamma gli ha chiesto di portarmi in un posto, mi porta in una casa, io aspetto che torni mia madre, ma mi viene sonno. Allora il signor Dick mi fa sdraiare sul letto, nel retro, e sto per addormentarmi quando sento che si sdraia su di me e si struscia. Allora comincio a urlare, tira pugni, calci e graffi, entra la signora Betsy, che mi blocca la testa e le braccia in maniera che il signor Dick faccia quello che deve fare. Io però continuo a scalciare, tirare graffi fino a che si spalanca la porta ed entra mia madre con un poliziotto. Oh, ma non so come ho fatto a scoprire dov'ero. Mi rinchiudo in cella. Una signora appena di me mi dà un bicchiere di latte. Il signor Dick viene condannato a 5 anni di carcere. Io a crescere in un istituto cattolico. Ciao Pinocchio. Ciao Celeste, questa è una segreteria. Cosa sono quelle macchie che abbiamo sulle porte in casa? Macchie di stucco, rotonde, rifinite male, stuccate, stucchevoli, macchie, riparazioni, buchi coperti, intonaco riparativo, scuse del colore sbagliato, sbavate, sbausciate, intonaco spellato. Non ti sento! Se menti ti si allunga il naso. Al collegio, se fai qualcosa di male, ti mettono un vestitino rosso. O che non è un bel vestitino rosso, è un vestitino tutto stracciato, strappignato. E se c'è il vestito rosso, le altre bambine non ti possono parlare, non ti possono ascoltare, non ti possono guardare, non possono giocare con te. E c'è questa bambina in cortile che va sull'altalena e va fortissimo, e va avanti e va indietro, va su e va sempre più in alto, urla, urla sull'altalena, urla fortissimo. E noi tutte bambine la guardiamo strabuzzando gli occhi. E la suora ci dice di non guardarla, di andarcene. Dice, il Dio la punirà. E lei va, va, continua ad andare sempre più in alto. Vola sempre più in alto. E urla, e urla, e urla. E poi... vola via. E quando la raccolgono c'ha il collo spezzato. Pronto, Pinocchio? Oggi la mamma mi ha dato uno schiaffo, era la prima volta che me lo dava. Ci siamo guardate e siamo scoppiate a piangere tutte e due. Ma tu, chi sei? Mia madre, per fortuna, aveva una zia, una sorta di zia, una nanny, una balia, una abbastanza intelligente da capire che mia madre non aveva un ritardo, ma si era zittita per qualcosa che le era stato fatto. Riuscì a spostarla in un altro istituto. Mamma è cresciuta in istituti cattolici di Roma fino ai 20 anni. Poi un giorno, ad un matrimonio di amici in comune, le hanno presentato mio padre. Hanno cominciato a scriversi lettere d'amore. Mia madre aveva 18 anni, mio padre 28, arrivava dalla Puglia e cercava di crearsi una vita a Milano. Pianificavano una fuga e una vita insieme. Alla fine mio padre andò dalle suore con un mazzo di fiori per chiedere la sua mano. Le suore acconsentirono. Mia madre passò dall'istituto alla convivenza con mio padre. Si sposarono, nacque mio fratello un anno dopo. Mio padre, quando era di buon umore, cantava. Questo sì, se lo ricorda anche la mamma. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Tu, tu, tu, tu. Rose rosse per te ho comprato stasera e tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Casa era piccola quando ci vivevamo in quattro. I miei genitori dormivano nel divano letto in soggiorno e mio padre ci giocavamo spesso. A un certo punto sento: ciao Celeste! Mi tiro su di scatto. Anche mio padre si tira su, si tira su. Lo guardo. Ma chi sei tu? Papà, papà. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa Pronto Pinocchio? Ciao Celeste, sì lo so che la tua segreteria oggi mi ha dato un ceffone, che sono volata dalla sedia, ho sbattuto contro il frigo, mi è uscito il sangue dal labbro, ho fatto una promessa di sangue a me stessa davanti allo specchio, quando sarò grande e potrò difendermi gliele ridarò tutte. Gliele ridarò, hai capito? Hai capito, papà? Te le ridarò tutte. A me, Billy, mi sembra che quando canti... cioè, non sei lì. E io non capisco se le piace, capito? Ma a me di lei, di quel poco che posso vedere dei suoi live, è proprio quella posa, la mancanza del sorriso, quando fa risuonare le note in smorfie che sembrano proprio di dolore. E va bene così, lei sta lì, sta in quel dolore lì, non so se ci sta bene. Ma ci sta, non si fa problemi, non sorride. Allora ho pensato, io sto qui, e ci sto in queste assenze. Pinocchio è il primo di tanti amici immaginari, ma forse tu anche, Billy, sei un'amica immaginaria, o una fuga, un tentativo di... Ottave, lungo, staccato, trrrilli. Oh, oh, oh. Pinocchio forse è una premonizione, un allenamento ad avere a che fare con l'assenza, l'essenza dell'assenza, l'assenza che è la mia essenza. Un castello, un letto a castello, io nascosta sotto il castello, nel letto castello, sto sotto il ponte, rifugiata, rannicchiata, sempre lì, rifugiata, rannicchiata, ma senza fossato, da tutti, irraggiungibile, e il rifugio, mi rifugio non più da te, ma a scrivere un discorso, un epitaffio! Io prometto che mi comprerò delle scarpe nuove, così iniziava. E lì sotto, nel castello, io ho sentito un... vuoto. Uno sbrodamento, un buco, una solitudine che non avevo mai provato prima. Come Pinocchio, come Giona. Rinchiusa nel ventre della balena, la mia voce esiste, la sento ma non la riconosco. E il mio corpo si esprime in un modo che la mia voce non ha ancora raggiunto mentre grido. Non posso dire quello che sento mentre grido, forse non vale neanche più la pena dirlo. Mentre grido, forse il silenzio è l'unica cosa che posso ancora fare mentre grido, e fare bene, stare zitta, grido. Non dire più grido mentre grido, non esprimere più grido mentre grido, immobile, morta, morire anche io. Pinocchio? Pronto? Ci sei? Pinocchio è morto! È morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, morto Flick, è morto Flock, povero Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, è morto Flock, povero Flick, povero Flock, è morto Flick, morto Flock, povero Flick, è morto Flick, morto Flock, povero Flick, morto Flick, morto Flick, sono morti, sono morti, sono morti, sono morti, sono morti tutti, sono morti, morti, morti, è morta Pinocchio, è morto mio padre, è morta mia madre, è morta Billy, è morta mia zia, è morta anche l'altra mia zia, è morto mio nonno, è morta Anna, è morto Pasquale, è morto Andrea, è morta Alice, è morta la nonna Rosa, è morto anche il nonno, non so come si chiama, ma è morto anche lui, anche i bisnonni, anche i trisnonni, e sicuramente anche quelli di prima, perché erano prima, ora ci sono solo quelli adesso, ma io non lo so se ci sono, non sono molto sicura che ci siano, a volte penso che non ci sia proprio nessuno qui, non c'è proprio nessuno, state dormendo o siete morti, state respirando, basta respirare per essere vivi, ma anche i vivi non ci sono, anche i vivi sono morti, e anche in futuro non vedo nessuno, io non vedo nessuno, nessuno, anche adesso io non vedo proprio nessuno, vedo, vedo, vedo. E io? Io sono, attenzione, io sono viva, viva! Viva, viva, viva, sono viva, evviva, sono viva, sono viva, sono viva, attenzione, io sono viva, che scoperta, io sono viva, attenzione, gente, io sono viva, gente, è arrivata la persona viva, c'è nessuno? Viva, Eva, viva, viva, c'è nessuno, ma voi l'avete mai visto un patto fermarsi? Billy. La prima volta che mi misero il vestito rosso era Pasqua e mi venne a trovare la mia mamma. Mi aveva portato un cesto pieno di cose buone da mangiare, due polli fritti, uova sode e tanta altra bella roba. Ma perché c'avevo il vestito rosso? Le suore non me lo facevano toccare. No, anzi, diedero tutto alle mie compagne e mi obbligarono a guardarle mentre mangiavano e spolveravano tutto, eh? Ma non era abbastanza questo castigo. La notte, invece di farmi stare in dormitorio con le altre, mi rinchiusero a chiave in una stanza dove avevano sistemato una ragazza che era morta. Oh, forse era la stessa ragazza che si era rotta il collo sull'altalena, non lo so, non me lo ricordo bene, so solo che non potevo soffrire la gente morta da quando la bisnonna era morta tenendomi stretta tra le braccia, non riuscivo a dormire, non riesco a respirare, non riuscivo a dormire, non riesco, ho gridato tutta la notte, sbattendo i pugni sulla porta, fino a riempirmi le mani di, papà, oh babbo, oh non ci provare babbo, papà, papà, oh babbo, oh non ci provare babbo, i soldi dell'affitto mi devi dare, ti devo dare, mi devi dare, io ti devo dare, ti devo dire che non ti ho mai detto che, no, non ti ho mai detto che, non ti ho mai detto che. Interrogazione di matematica. Y meno x alla seconda uguale 2. Celeste, è venuto tuo fratello, dovresti uscire un attimo. X alla seconda, lo ribalto di là, diventa più, Celeste è arrivato tuo fratello a prenderti. Sì, Y entra nella camera da letto. E c'è X che è meno. Meno, con la... Con la seconda? Questa mattina aveva la bocca aperta, un occhio guardava di qua e un occhio guardava di là. Ma X era più, adesso è meno. E la bocca gliel'hanno chiusa. Bravo. Adesso stai zitto. Adesso stai zitto. Oh, adesso non rompi più il cazzo! Adesso stai zitto È immobile. I think I soon go mad. Immobile steso. Immobile tutto, eh? Adesso stai immobile. Rose rosse per me come un pezzo di legno. C'era una volta un pezzo di legno, papà, papà, papà, papà, col cuore di legno, mani di legno, ora sei tutto un pezzo di legno, da pezzo di mare, da pezzo di legno. Oh, non parla di frutti, non parla di frutta, non parla di frutta, stringe frutto, non parla mica di frutta, ma quelli appesi agli alberi sono corpi uomini, neri ammazzati dalle mani di uomini bianchi. Io non c'entro niente, tu non c'entri, Billy, io non c'entro con te, scusate. Dove eravamo rimasti? Oggi è una serata dedicata a Strange Fruit! Strange Fruit è la sua canzone più famosa, non parla di frutta, è dedicata alla morte di papà, papà, papà Holiday, che fu cacciato dall'ospedale. Pronto? Pronto? Pronto. Sono 18 anni che non ci sentiamo. Potresti rispondere? Stai ancora volando tra le nuvole? Io ti immaginavo sempre volare tra le nuvole per il vento. C'era sempre vento quando ti chiamavo allora. Non so, adesso che ti ho chiamato non so più che cosa dire. Non c'è neanche il vento. Sono arrabbiatissima. Sono ancora arrabbiatissima. E non si può andare via così, no, non si può andare via così. Non si può dire un giorno esisto, il giorno dopo non esisto. Non si fa, eh. No, non si fa. No, per gli altri almeno. Parla. Parla. Parla, stai zitto. Parla. Parla, stai zitto! Parla. Se non parli io, come faccio a dirti di stare zitto? Una chiama un amico dopo così tanti anni e quello ancora è morto. Non fa la decenza, non so, di rinvenire un momento, di dare un segno, di rispondere al telefono, di ascoltare almeno i messaggi della segreteria che vi ho lasciato in tutti questi anni, darmi almeno, non so, una direzione, lasciarmi qualcosa di scritto, lasciarmi delle istruzioni, lasciarmi delle scuse, lasciarmi una lettera, lasciarmi scritto che andava bene, che andavo bene, invece di lasciarmi. Ma tu sei di legno. Non capisci niente. Io non sto più zitta, sto, sto, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Grazie. È finito. Grazie, grazie, Vito sul palco, Marti e Laura. Aspetta che libero un attimo. Chissà se questo ha ripreso qualcosa. Ah, grande. Eccoci qua. Tanto grazie, vi ringrazio molto della vostra presenza, una cosa incompleta, sperimentosa. Appunto, a proposito di presenza, grazie del vostro tempo dedicato. Ma grazie a te. Grazie. Sto ancora un attimo digerendo questo lavoro che tra l'altro non è finito, sono solo alcune parti, mi dicevi. No? Sì. Sì, sì. Questo è un testo che sì, esatto, non è ancora completo, ha cominciato a prendere vita grazie a un meraviglioso gruppo guidato da Eliana Rotella, drammaturga che tra l'altro è stata ospite anche qui, che fa un corso di scrittura per la scena e appunto che mi ha dato insieme alle mie compagne, di cui c'è qualcuno, anche insomma superare tutte le pippe che ci vengono quando iniziamo a scrivere. Fa schifo, non interessa a nessuno, perché devo fare questa roba? A un certo punto, insomma, ci sono ancora, però... ecco, devo dire che essere accompagnati da qualcuno, avere un gruppo di lavoro con cui confrontarsi, è sempre molto molto utile. Infatti stasera siete un gruppo di lavoro che ho sfruttato. Assolutamente. Ed è incompleto, manca in realtà tutto il finale, mi hanno detto che ci potrebbero essere tre spettacoli in questo testo, quindi sicuramente ci sarà da fare una selezione, però ci sto ancora navigando molto dentro. Sì, perché poi anche nello scorrere del testo, cioè, si sente molto questo, come se ci fossero tante voci che arrivano libere, quindi c'è questo flusso associativo che anche... da pubblico a volte è difficile da seguire, poi a un certo punto metti insieme i pezzi, però apprezzo molto come sia molto appunto libera questa scrittura. E anche io ci ho visto tanto, a parte i corpi che vengono menzionati, tanto corpo nella sperimentazione del suono, quindi mi chiedo come sei riuscita a scrivere facendo uscire così tanto la dimensione fisica, che c'è anche, non so, nel rumore del vento, o quanto anche, cioè com'è che l'hai scritto? Eh sì, è interessante, perché non, io appunto sono la mia prima esperienza di scrittura di un testo lungo, però le volte che mi sono trovata a dover scrivere per il teatro ho sempre cominciato da improvvisazioni nello spazio. E anche quando mi ero iscritta a questo corso dicendo adesso scrivo il mio testo, mi era impossibile scriverlo, cominciare a scriverlo da seduta. E quindi ho avuto il supporto, comunque, cioè, avere supporto è bellissimo quando la gente ti regala il suo sguardo, di Paola Tintinelli, che a un certo punto, mentre io le raccontavo tutte le cose che volevo fare, lei mi fa: va bene, dai, prendiamo tre microfoni, facciamolo! E quindi con lei ho cominciato a improvvisare. E io lavoro tanto di improvvisazione, quindi sicuramente le voci sono anche nate perché ho cominciato a giocare con questi tre microfoni, perché avevo in mente all'inizio di fare uno spettacolo su Billie Holiday, invece Billie Holiday è una fugona mia. Però ecco, ho preso queste improvvisazioni, le ho sbobinate, ho detto ah, ciao, mo c'ho qualcosa da cui cominciare. E ho cominciato a mettere, cioè, spostare i pezzi, riordinarli, e poi da lì sono riuscita anche a sedermi e ad amplificare dei pezzi, perché prima era tutto iper segmentato e però anche molto poco leggibile. So che forse ancora appunto le parti potrebbero essere, non lo so, poco leggibili dal pubblico. La mia idea adesso era appunto di creare all'inizio qualcosa di, cioè, tre voci riconoscibili che mano a mano vanno poi a fondersi. No, però per me in realtà ci sono dei punti appunto che ritornando, cioè funziona quasi più come, cioè è molto da ascoltare, perché ci sono dei pezzi che ritornando ti riaccendono, creano il link, no? Allora c'è, cioè, la telefonata con Pinocchio, la sto tornando lì. Sì. Sì, ma infatti scusa, prima mi dicevi della dimensione del suono, io avevo deciso che questo spettacolo doveva essere, appunto, cioè deciso, non l'avevo deciso, è nato così, nelle improvvisazioni, e tra l'altro tutti i suoni che faccio, i suoni che emergono, idealmente poi si fondono in un'unica traccia che emerge alla fine con l'uso di una loop station, che sono proprio tutti i pensieri di Celeste, no? Di questa cantante. La mia idea era proprio anche di lavorare sul suono del linguaggio e quindi questa ricerca a volte, questo incantarsi sulle parole, fare dei giochi di parole, incastrarsi, no? Nella ripetizione e nel suono solo di parole che si trasformano. Non so bene spiegarlo ancora razionalmente, però è la via che mi interessa. Cercare. No, è buono che ci siano dei link, grazie, questo è un altro feedback. E trovo anche che nella ripetizione, a un certo punto, nel ripetere poi alla fine, cioè, nasce qualcosa che magari non ti aspetti da questa ripetizione, quindi in realtà Sì, anche anche in stasera ho capito delle improvvisazione, cose che non avevo capito di quindi in aver realtà il scritto. testo a me ha fatto anche arrivare a questo tipo di, appunto, di consapevolezza in un certo senso che appunto. Non, a volte appunto non pensare, ma ripetere ti porta poi a far evolvere qualcosa. Sì, forse è anche un modo di stare, cioè di stare nella cosa, stare nella cosa, stare nella cosa. Quando, ah, ok, è questo. Io ho pensato una cosa, anche se lo dico un po', cioè non sono assolutamente una critica del Dillo. teatro, quindi potrei dire una strada gigante, però ho trovato che lo stile della tua scrittura fosse molto simile a forse lo stile del tuo recitare, che è un po' quello dei pubblicatori di rock, e quindi un po', non lo so, ho un po' pensato, cioè nella mia esperienza e memoria, come se il modo in cui tu hai scritto e hai letto mi ha fatto immaginare come quello spostamento assurdo e giochi di spazio e di movimento che c'è molto nella scuola di quelli di rock. Quindi mi sono chiesta se, cioè, siccome questo è anche il tuo primo testo che hai scritto, quanto, diciamo, la tua esperienza invece da attrice possa avere consapevolmente o inconsapevolmente influenzato il tuo scrivere. Ah, no, sì, assolutamente, sono due Magari è cose. un'associazione folle come Ah, anche io. no, beh, ovviamente i quelli di Grocca è la scuola che ho fatto e sicuramente rimangono le radici del lavoro che ho fatto, soprattutto con Claudio Orlandini, di un training dello stare nel vuoto anche a volte, no? Per creare. Però sì, assolutamente il mio essere attrice è strettamente collegato alla scrittura. Io non nasco drammaturga, non mi sento neanche adesso di nominarmi tale, però mi piace scrivere perché la ricerca del mio linguaggio è chiaramente subito per me anche una ricerca di modalità dello stare in scena, di qualità e forma performativa, quello sicuramente. Beh, ma in qualche modo quando anche improvvisi per decidere appunto come occupare uno spazio in scena, stai scrivendo quello spazio. Quindi in realtà magari questo tuo testo è un po' una trasposizione, cioè il tuo modo di scrivere è anche, cioè il tuo recitare è anche un po' scrivere, cioè io ti ho già visto, ne parlavamo prima, mi piace molto come nei tuoi lavori da attrice anche io sento molto la tua scrittura nello spazio. E quindi l'ho ritrovata sulla carta, in forma di parola, che è anche molto poetica, secondo me. Grazie. Vabbè, sì, aspetta, non so, è difficile rispondere. Penso che, cioè, queste parole le ho scritte io e quindi le ho scritte già, cioè io ieri, presa dall'ansia, ovviamente mi sono messa a scrivere delle cose, ad aggiustare il testo e lo facevo dicendo ad alta voce. E dicevo, ah, questo va. Poi, beh, lo scrivo, cioè lo devo fare per poterlo scrivere, no? Non, mi è molto difficile scrivere solo per scrivere. Quando scrivo dico, ah, troppo letterario, questa roba non è performativo, quindi cancella, no? E poi sullo scrivere in scena, grazie, è un bellissimo anche insomma, osservazione sul mio lavoro d'attrice, e penso che poi insomma il testo, ci sono le indicazioni registiche, poi c'è la vita e l'interpretazione, ognuno ci mette quella sfumatura che gli è propria ed è bello della ricerca del recitare. Entrando più nel merito del testo, Sì. da dove ti è nata questa esigenza, un po' se, non so se è un'esigenza, però diciamo la voglia di scrivere questo testo, cosa ti ha spinto a fare un po' questo lavoro? Allora, volevo lavorare nel teatro, volevo fare l'attrice e allora ho detto, nei teatri non si lavora, ora scrivo il mio testo, faccio un bel lavoro così su una musicista che mi piace, così canto, faccio anche vedere che so cantare, vado nei bar, è fallito completamente questo piano. E la prima volta che io ho scritto solitude è stata nel 2000, cioè la parola solitude è stata nel 2015. L'assenza è la mia essenza, che, come dire, l'ho voluta mettere a una frase di quando avevo 18 anni, di tutta il mio Sturm und Drang di quel momento di lutto. Per cui, come dire, è come se tante cose che ci sono in questo lavoro fossero nel cassetto da tanto tempo. E quando mi sono messa a lavoro su Billie Holiday, continuavo a finire di parlare dei cazzi miei. E dicevo, ma cazzo, ma io però non li sopporto quelli che parlano dei cazzi loro. Ma non è vero, poi non è vero, mi piace molto. Dipende, dipende, dai, diciamo dipende, lasciamoli così. Però insomma, non volevo fare uno spettacolo sui cazzi miei, sui fattacci. E alla fine mi sono un po' resa, ho detto, boh, un sacco di gente, alla fine l'opera prima fa le autobiografie, parla di sé, mi hanno anche detto, guarda, è normale, capita a tutti. E poi mi hanno anche detto una volta, si parlava di amore o di morte, io ho detto, beh, sulla morte ci siamo. E quindi ho detto, boh, io scrivo quello che mi viene. Ed è stato un grande lavoro di superamento della vergogna, un grande lavoro di superamento della vergogna, che conosciamo tutti come sentimento, ma quando si decide di attingere alle proprie anche fragilità, soprattutto quando si parla di dolore, a me il dolore mette tantissimo in imbarazzo, perché è un attimo chiudersi, da non essere più comunicativi, dal peccare, super io molto forte, peccare di egocentrismo, no? Dico, no, non puoi essere egocentrica. E invece ho detto, boh, fai spazio, lascia andare, quello che viene è giusto, e poi sto nel lavoro, cioè sto nella pratica del lavoro, sto non in un giudizio su di me, ma cioè osservo il lavoro e se ci possono essere degli errori sul lavoro, ma lo metto lì come oggetto anche professionale, e questo mi ha aiutato tanto a prendere materiale che è mio, poi inventato, rimaneggiato, e insomma non è tutto vero. Ma infatti da pubblico non capisci di chi si sta parlando ogni Perfetto. tanto. E la voce di Pinocchio, poi di Celeste, poi Billie Holiday. Sono biografie che si sovrappongono e magari in realtà quindi non emerge questa l'autocommiserazione Oh, grazie Marti, che mi hai tolto sto o. peso. No, infatti a me quello che poi mi piace che emerga è una donna. Cioè, ci sono tante donne, c'è una donna che si fa, come dire, che si fa corpo di tante voci. A me piacerebbe arrivare lì. È una donna, dentro di sé ha tutte queste antenate, Esatto. E questi anche, pezzi. cioè, la donna piccola, la donna grande. Ma c'è qualche domanda dal pubblico? Così smuoviamo il trio. Senza paura. C'è Una. una domanda, ma lo registro. Spera. Questo lavoro è pensato anche per un'altra attrice, per altre persone che lo facciano. Ah, interessante. No. No. No, ma nel senso che lo vedo molto difficile, cioè non perché le attrici non siano brave, ma è proprio per ora è un lavoro che sento mio e su cui io gioco ancora tantissimo, per cui non tutto quello che ho fatto stasera è scritto. Poi ho, ma cioè, magari un giorno sì, magari divento tipo chi è la Raffaella Giordano che ha fatto rifare il suo solo storico, un'altra danzatrice. Non lo so, però no, per ora non credo. Magari qualcun altro lo farà per te. Comunque sai, è un bellissimo esercizio, non l'ho ancora fatto, però è un esercizio teatrale di fare un pezzo e poi chiedere a qualcun altro di rifarlo, come l'hai fatto tu. Ed è un esercizio che mi piacerebbe molto in realtà provare a fare anche con questo lavoro, perché osservi delle cose che rimangono impresse agli altri di te e di come ti sei mosso, di come parla, insomma, di quello che hai fatto, per poterti osservare e magari no, avere uno scambio, che non è solo uno scambio di feedback, ma è come se io cioè, dicessi adesso come ti chiamo? Silvano. Se Silvano adesso entra e fa un pezzo, prova a rifare quello che ho fatto io, un pezzettino, non 45 minuti, e dice, cazzo, guarda Silvano, cioè, mi sta dando qualcosa, no? Al di là del mio feedback. Sarebbe divertente. Vuoi farlo, Silvano? La prossima puntata. Vabbè. Ci arriva? Forse sì, forse aspetta, no, forse sì. Alza la sedia. Vai. Che, no, io avevo voglia di condividere delle cose, non so se poi ti viene da rispondere in qualche modo, però sento da parte di alcune artiste, perché l'ho visto più in spettacoli, visto che si parla di una rassegna che ha attenzione a scrittrici donne, sento un modo di scrivere che per me è un processo, un approccio alla scrittura che secondo me è veramente, come dire, gravido di possibilità. E si è sottolineato tanto il tuo essere attrice, però secondo me il tuo essere attrice crea veramente un nuovo modo di arrivare all'esperienza teatrale, che per questo ho detto attrice all'inizio, perché non può che passare attraverso il corpo. Cioè anche adesso io come spettatore, ascoltatore, sono messo in una posizione emotiva dove il mio discorso mi sfugge. E questa cosa ce la permetti tu, secondo me, perché te la sei permessa. Cioè è come se avessi una fiducia spesso ho detto, ho deciso, è successo, cioè, però alla fine è una cosa interessantissima per me, che ho voglia alla fine di un'esperienza di mettere insieme i pezzi, è possibile, perché è come se nel processo avviene qualcosa di fondamentale per quello che stai raccontando. La mia amica, per esempio, dice una bellezza, come dire, presente, sotto traccia, che non è, come dire, non è manifesta, anche questo secondo me c'è qualcosa di anacronistico nel tuo scrivere, che non rende molto contemporaneo, come dice qualcuno, cioè, e quindi mi perdo, ma mi fa piacere perdermi, e grazie a te, perché quello che vuoi dire è che secondo me è inevitabile che davanti alla violenza, la riscoperta della voce, passi attraverso una danza di frammenti di voce, ma questa cosa, caspita, è di una potenza intellettuale. E qua forse arrivo a toccare, cioè il motivo per cui ho preso il microfono, per fare esperienza di quello che mi hai dato. Cioè, il teatro ti permette, ci hai permesso secondo me oggi, di arrivare a un pensiero, a un'immagine attraverso il corpo. E questo è possibile solo se si sceglie un linguaggio con le proprie viscere, che è quello che secondo me tu fai. Cioè, con la stessa cosa, se ci avessi raccontato la mia conferenza, se avevo dato una pacca sulla spalla, invece oggi c'è successo, cioè almeno parlo per me, mi è successo. È possibile, perché noi c'è una grande anche fiducia nello scambio tra autore, attore e ascoltatore. Quindi, insomma, grazie. Allora. Ma aggiungo forse solo questo, perché effettivamente non abbiamo nominato adesso il tema che è sicuramente quello della violenza, quando mi dicono di cosa parla lo spettacolo, però in realtà ce l'ho chiaro, la violenza nel percorso educativo, la violenza, no, non ce l'ho chiaro, però più o meno quello che dico io, rispondo, è la violenza su tre figure bambine che poi crescono e cercano di riprendersi lo spazio in modi diversi. E il finale di questo spettacolo sarebbe un take the floor, no? Mi prendo lo spazio che lei lo dice all'inizio, ma adesso lo prendo tutto questo spazio, lo voglio tutto, illumina tutto, e questo è il microfono mio. E perché vuole dire, no? Vuole dire quello che c'è dentro, quello che c'è dietro, che è la violenza, ma è una violenza che le è sempre stata negata. E il modo per riuscire a raccontarla è un'unione di frammenti, perché anche il modo, adesso non voglio fare psicologia spiccia, però anche il modo in cui si esprime il trauma, cioè nel senso non può essere spiattellato, almeno per me in questo lavoro. È lì, è pesante. Ed è un po' come dire cosa ci faccio, dove lo metto. E riemerge. Riemerge. Sì, comunque sono d'accordo con quello che dicevi, ma io noto molto che anche è una direzione della scrittura ora femminile, forse perché si è riappropriata del corpo, ma c'è molto corpo, e corpo inteso anche come voce, inteso anche come modo diverso di scrivere in un certo senso. Per quello per me è una bella opportunità quella di poterlo leggere ascoltandolo e sentirne tutte le sfumature, le deviazioni, che a volte come la memoria funziona per associazione e non solo per ragione, non so come dire. Sì, sì, è stato, tutte le improvvisazioni erano tutte associazioni, cioè era fatto tutto d'associazione, che probabilmente anche poi... cioè facilitato che la struttura del lavoro stia prendendo questa piega. E comunque quando lasci andare il flusso poi le cose emergono anche in maniera frammentaria. Grazie. Grazie. Grazie. Andiamo a bere, si può dire nel podcast. Vai. Quindi ci vediamo in Exalge. Ah sì. L'11 ottobre in Exalge con Sofia Zobina. Andate, bravissima! Ho fatto danno! Sì, era acqua. E poi sarà tutte male. Le puntate sono registrate, si possono riascoltare su... Ah sì, sì, sul sito di Exalge c'è una... Sul sito di Exalge c'è una sezione radio d'archivio, e se cercate Cabaret World Extra comunque ci sono tutti e due, sia Cabaret che Cabaret Extra, e trovate le puntate vecchie in archivio che sono ascoltabili lì. Altrimenti, se l'11 ottobre per qualche ragione non potete venire in Exalge, potete ascoltarla live sulla radio di Exalge. Grazie ragazze. Grazie a te.